already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Age 36. My next guest is the youngest governor in the country. Many believe the future is the future of the Republican Party. Pundits even saying he's on John McCain's list of possible running mates. Ooh. Please welcome from the great state of Louisiana, Governor Bobby Jindal. Il più giovane governatore degli Stati Uniti d'America, dal Great State, dal grande stato della Louisiana, Bobby Jindal. To see you again. Last time I saw you was in Baton Rouge. Well, that's right, and thank you so much for coming down. We did a great fundraiser for the community college. You've been so generous with the E questa è la voce di un uomo che è bene che cominciate a memorizzare, direi, sia la voce che l'uomo, almeno il suo nome, Bobby Jindal, un cognome soprattutto alle orecchie americane, forse altrettanto così stravagante, bizzarro, quanto quello stranissimo, no, di Barack Obama. Vi ricordate 2 anni fa quando si ridacchiava dicendo questo nome, chissà cosa poteva nascondere, attualmente nasconde un presidente degli Stati Uniti d'America. Bene, siamo andati a guardare allora dall'altra parte dello steccato. Questa parlantina tipicamente meridionale, del resto uno risiede a Baton Rouge, mica per caso, in Louisiana, no, giù sul Golfo del Messico, appartiene a questo signore, giovanissimo, ha 37-38 anni, si chiama Robert Jindal, è un americano di prima generazione, i suoi genitori sono indiani d'India, del tanto discusso e raccontato paese che in questi giorni è sotto attacco. Lui è nato e cresciuto negli Stati Uniti d'America, è entrato rapidamente, come sta raccontando, grazie alla permissività di suo padre, che gli ha detto: ma studia un po' quello che vuoi. È entrato in politica giovanissimo ed è diventato un ragazzo prodigio del Partito Repubblicano. I asked my dad, I said, how does that work? Like, if you miss a payment, they come and take the baby back. Exactly. E adesso fa un certo effetto vederlo in televisione con quella faccia da giovane indiano, quella pelle scura, come ci ha sorpreso a suo tempo vedere l'astro nascente della politica americana, l'irresistibile dominatore delle primarie e poi delle presidenziali, Barack Obama, un afroamericano. Qui abbiamo a che fare con un'altra personalità perfettamente americana, ma che al tempo stesso porta una contaminazione, no? In un settore che era bianchissimo come la politica di vertice americano. E Bobby Jindal, come vi dicevo, va memorizzato perché probabilmente incarna, rappresenta la più radiosa promessa politica per un partito repubblicano che ha bisogno di ricostruirsi. Tant'è vero che proprio attorno al suo nome in questi giorni il dibattito ferve, è caldo, si vuole capire se è lui veramente l'uomo giusto su cui ragionare, su cui investire, su cui lavorare in vista di un 2012 che è lontanissimo, per carità, ancora deve entrare in funzione la nuova amministrazione. Eppure i repubblicani, insomma, dopo la scoppola che hanno rimediato con le elezioni di medio termine, che sono già meno lontane, in fondo sono lontane solo 22 mesi, devono comunque trovare una leadership. Certo, non si può contare sulla leadership uscente, no? Quella di un senatore John McCain, che a 72 anni adesso si sta tranquillamente rimettendo in sesto dopo le fatiche delle presidenziali. E allora, insomma, il dibattito impazza. Ne abbiamo seguito uno molto interessante su due politologi di ottima qualità a Washington, proprio attorno alla figura di questo giovane politico 37enne, brillante, con però solide radici religiose, che quindi riesce addirittura a contaminare perfettamente, no, la sua provenienza da un paese che ha ben poco di cristiano, con invece una severa, seria militanza cristiana, ma che al tempo stesso porta comunque il cambiamento, la diversità in sé, no, nel suo stesso essere, che può rappresentare anche un pericolo per la grande tradizione della Right Nation, no, dell'America conservatrice più legata a determinati e presunti presupposti. E i due analisti che hanno discusso attorno al nome di Robert Jindal, sostanzialmente sostenevano queste tesi. Quello più scettico sulle possibilità di Jindal di diventare veramente il numero uno, di prendere il posto di una Sarah Palin, che sembra forse una scommessa veramente con il fiato più corto, perché i suoi problemi si sono capiti, si sono visti, si sono già ampiamente presentati in sede di ticket repubblicano. Ma insomma, Chris Hoare, si chiama questo analista, ha fatto notare che in un certo senso lavorare troppo seriamente, puntare troppo su Bobby Jindal, vuol dire risvegliare, no, quei dubbi subliminali che l'America in fondo ha provato nei confronti di Barack Obama e della sua americanità, della sua autenticità americana, praticamente fino all'ultimo momento, fino a quando si è capito che stava lui sfondando veramente delle mura di cartone. Insomma, poi c'è il problema di un voto estremamente conservatore. Gli ultraconservatori del Partito Repubblicano sarebbero disposti a mettersi così tanto in discussione da votare per un candidato di radici straniere, di radici indiane, come Jindal, soprattutto al sud, da cui peraltro Jindal proviene. E la sua possibilità di essere il nominato per il 2012 non rappresenta forse un rischio troppo grande, no? Una scommessa troppo alta, perché in fondo quello che sostiene sempre questo scettico, questo osservatore scettico, quello che il Partito Repubblicano sta cercando non è tanto un proprio Obama, un suo Obama, no? Ma è soprattutto un anti-Obama. Però c'è un altro giovane analista che abbiamo avuto anche il piacere di conoscere, si chiama Rose Dotout, lavora essenzialmente per un eccellente mensile come l'Atlantic Monthly, che è di tutt'altro parere e sostiene che secondo lui invece Jindal, proprio per questa sua giovinezza, freschezza e anche per questa sua grande comunicativa, intelligenza, capacità di piacere, è l'uomo giusto, perché in un certo senso può piacere moltissimo al Partito Repubblicano, una percentuale rilevante del Partito Repubblicano, dimostrare di essere capaci di fare, no, il passo in più, di essere capaci anche il Partito Repubblicano di mettersi in discussione, ragionare, rinnovarsi, adeguarsi a un ventunesimo secolo, mettendo al posto di comando, almeno al posto di comando potenziale rappresentato da una candidatura, un signore dalla pelle scura, dalle origini sicuramente globali, no? Come potrebbe essere Jindal, con tanto di nome un po' buffo, no? Insomma, una specie di scommessa multiculturale, però sul profondo credo reganiano, di cui Jindal peraltro è serio rappresentante, e una candidatura che potrebbe a quel punto far scegliere alla destra americana di prendere definitivamente le distanze, no? Il distacco dal razzismo, dalle scelte prefigurate, preordinate, che a lungo l'hanno contraddistinta, per abbracciare il tempo del contemporaneo a tutto tondo, no? E non a caso scegliere l'uomo migliore per rappresentare questa scelta. Ma intanto bisogna, sì, un po' precorrere i tempi per vedere cosa ci aspetta in fondo alla strada, ma anche stare più vicini al presente. Per esempio, cominciare a immaginare cosa diavolo succederà questo 20 gennaio, che comincia a prendere i toni, le tinte del giorno dell'Apocalisse, il giorno dell'inaugurazione, no? Il giorno in cui ormai è ufficiale e confermato a più parti una cifra che sta fra i 3 e i 4 milioni di americani si presseranno come sardine nel mall, no? Nel National Mall, nel vialone davanti alle scale del Campidoglio, per essere testimoni, per essere lì, per esserci il giorno in cui Barack Obama giurerà. Tra l'altro c'è molta incertezza all'interno dell'amministrazione entrante alla Casa Bianca su quanti quattrini spendere in questa occasione, su quanto investire nella festa, no? In un momento come questo, in cui l'economia americana fa acqua da tutte le parti, può essere serio, scrivono diversi giornali in queste ore, far vedere, no, una infinita teoria di limousine luccicanti da cui scendono magari meravigliose signore impellicciate e distinti signori con abiti da $3,000, non può essere no, una specie di mossa così, di mossa sbagliata, di autoflagellazione, no? Esporsi così trionfanti in un momento in cui in realtà il paese soffre, cioè l'altra parte del paese, l'altra parte della ferrovia, dove le cose vanno tutt'altro che bene. Metterla troppo in, no, in termini vistosi non può essere una operazione sbagliata. Si ricorda come Franklin Delano Roosevelt, quando diventò presidente ufficialmente, accettò l'inaugurazione, accettò la nomina a presidente, fece praticamente un discorso a braccio, parlò agli americani a braccio e poi neppure andò al ballo inaugurale, che pure era elegante, insomma, naturalmente c'era la grande società americana dell'epoca, degli anni 30, lui neppure ci mise piede, per far vedere che erano ben altri i suoi pensieri e le sue preoccupazioni. Certo, c'è un'America che vuole festeggiare, che vuole celebrare questo giorno storico, insomma, però c'è anche una amministrazione subentrante che ha sempre detto di essere arrivata a Washington per cambiare la regola di Washington, no? Per cambiare le abitudini, comprese quello, soprattutto quello degli sprechi, delle esagerazioni, delle ingiustizie. Per adesso dunque si è scelta una via di mezzo, quella degli sponsor privati, anche se sponsor privati puzza un po' di lobby, no? Puzza un po' di tutto ciò da cui Obama e i suoi vogliono prendere la distanza, e quindi vengono accettati finanziamenti da privati, ma solo se privati cittadini, non società, non corporation, non multinazionali, niente. Però al tempo stesso ai cittadini è stato dato agio di spendere tanti soldi. Nella fattispecie si è alzato il tetto del singolo contributo da $50,000 a $250,000 da donare così al comitato di transizione per organizzare la festicciola. Quindi se qualcuno molto molto ricco, molto molto entusiasta delle sorti di Barack Obama e del suo entrante governo ha voglia di buttare quattro noccioline, nella fattispecie 250.000 noccioline, per far sì che quel 20 gennaio diventi memorabile, beh, bene accetto, basta che stacchi un assegno. What a difference a day made. Twenty-four little hours brought the sun and the flowers. Today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference, what a difference Cristina Aguilera. Scusa se ti interrompiamo, se ti interrompo, ma qui vedo che l'argomento Jindal vi ha interessato, in parecchi siete intervenuti per saperne di più, per precisare, per chiedere. C'è chi vuole un candidato cinese, io aspetterei un attimo, ragazzi, insomma, un passo alla volta, no? Altro che vai col sorpasso, quello più che un sorpasso mi sembrerebbe come dire un assolo, no? Comunque Simo dice Jindal è un altro social conservative, se sarà scelto come numero uno del Partito Repubblicano vuol dire che i repubblicani non hanno capito nulla. E un altro ascoltatore ci dice Cristiano come? Scusate, non siamo stati precisi. Cristiano cattolico, cattolico di Santa Romana Chiesa. Questa è la religione di Jindal. Poi un altro ascoltatore ci dice no, gli indiani sono di razza bianca, ma noi leggiamo dal sito ufficiale di Bobby Jindal che viene presentato come the first non-white elected governor of the state, il primo governatore eletto dello Stato non bianco, quindi insomma è ufficiale, è autoattribuita la qualifica di non bianco. E poi ancora ci chiedono se è uscito già un libro che analizzi le elezioni 2008, credo che presto ne saremo sommersi, ma per ora non se ne vedono, anche perché non è proprio un libro facilissimo da scrivere. E un ascoltatore di cui taccio il nome per così per evitare la ripartenza delle polemiche che ieri così hanno un po' arroventato, un po' incattivito la trasmissione, ci dice che se Jindal diventerà il candidato repubblicano promette di bere 6 lattine Dr. Pepper alla vaniglia. Caro ascoltatore anonimo, io ti potrei prendere in parola perché nessuno, sappi, nessuno è mai sopravvissuto a 6 lattine di Dr. Pepper alla vaniglia. Prima pagina. Ah sì, scusate, Aretha Franklin, non Cristina Aguilera, scusate. Il disco apertura. Allora, veniamo alle notizie cinesi, ce ne sono di importanti riguardo il Tibet, riguardo l'economia, però ne è arrivata una, un'ansa battuta pochi minuti fa, irresistibile, alla quale appunto non ho resistito, perché dall'inizio del 2008 l'ufficio delle dogane di Varese Malpensa, quindi dell'aeroporto internazionale di Milano, ha respinto al mittente più di 2.000 spedizioni dirette a privati cittadini contenenti oltre 12.000 pastiglie di Viagra, che arrivano in gran parte dalla Cina, anche dall'India e dallo Sri Lanka. Pare che queste pastiglie, queste confezioni fossero sprovviste di qualsiasi indicazione circa la composizione, all'esclusione della scritta che riporta il nome del prodotto, ma a quel punto può essere veramente qualunque cosa. Ma poi abbiamo fatto, mi sembra, di numerosi speciali su Viagra, Niagra, Ciagra, tutti qui però il nome era scritto corretto, imitativi. Viagra. E poi c'è una nota dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, che dice il fenomeno è in crescita, soprattutto all'aeroporto Varese Malpensa, che non si capisce se è in crescita il numero delle contraffazioni e il numero delle richieste di Viagra. Sì, questi, da parte doppi, di questi doppi sensi potresti cittadini risparmiarteli italiani. Veramente sulle crescite. Dai, su. Vabbè, quindi com'è finita comunque? No, è finita che queste 12.000 confezioni sono state rispedite, rispedite al mittente? Agli indiani cinesi o agli abitanti di Sri Lanka, che oh non so come Dio. Si chiamino. E che sono già tantissimi. Forse poi le stanno usando anche loro. Appunto. Che sbaglio, uno sbaglio strategico anche, no? Il controllo della natalità, prego. Allora, veniamo a cose più serie. Prosegue la telenovela su Cina, Tibet, Unione Europea, questa triangolazione di cui abbiamo dato conto più volte in questi giorni qui a Jefferson Ming. Dunque, la Cina ha lanciato l'ennesimo avvertimento alla Francia, a questo punto non sappiamo se prenderla in parola o meno, affermando che le relazioni commerciali tra i due paesi, tra Cina e Francia, potrebbero essere danneggiate dall'incontro di Sarkozy con il Dalai Lama, che è previsto per sabato in Polonia. Ormai si sta creando una cappa di attesa, ma anche di tensione attorno a questo incontro tra il Dalai Lama e Sarkozy, che probabilmente, se non ci fosse stata tutta questa gran cassa cinese, sarebbe stato, non dico inosservato, ma insomma sarebbe stato un normale routine, incontro sì, di un sì, certo, leader europeo occidentale, certo, con il Dalai Lama, in occasione peraltro dell'anniversario del Nobel dato a Lech Wałęsa ormai oltre 20 anni fa. Quindi insomma continua la boutade tra Cina e Francia. Tra l'altro Hans-Gert Pöttering, il presidente del Parlamento europeo, è andato a sua volta sull'argomento, soprattutto riferendosi al fatto che la Cina ha sospeso il vertice con l'Unione Europea in programma qualche giorno fa a Lione. Ha dato una risposta direi abbastanza salomonica a questo rifiuto cinese, perché ha detto il Parlamento europeo riconosce l'integrità territoriale della Cina, alla quale appartiene il Tibet, ma contemporaneamente non smetterà mai di difendere i diritti del popolo tibetano. Quindi insomma ha voluto dare una risposta in qualche modo che possa accontentare entrambi le parti in causa. Quanti ricordi, guardate, io uno dei giorni più belli che ho passato, adesso scusate un momento intimo, ho passato negli Stati Uniti fu quando, non so in base a che titolo, millantando qualche credenziale così un po' d'occasione, riuscì a farmi invitare all'inaugurazione dell'albero di Natale alla Casa Bianca, che è una festa dove si ridiventa tutti i bambini, ci sono i soldatini in costume da 700, 800, suonano con i flautini, poi poi sono tutti cecchini invece quelli veri sul tetto della Casa Bianca, anche loro addobbati. Tu fai finta di non vederli, no? Tu qua. Poi ti fanno un sacco di regali, cioè le ciambelle calde, Dottor Pepper, le toffolette, niente dopo. È una roba meravigliosa, è uno spettacolo che dura 4 ore a meno 20 di temperatura, ma bellissimo. Poi arrivano, a un certo punto sono arrivati George W. e Laura e ci hanno fatto gli auguri. Io mi sono sentito buono, anche repubblicano e anche comunque presidenziale, insomma è una roba di grande adesione, ma non sapevo quanto trapela oggi, ovvero che sull'albero di Natale della Casa Bianca ci sono le palline dei presidenti. Questa è una novità che arriva da CNN. È stata intervistata Laura Bush, che pare non lo sapesse neanche lei. Si sapeva che c'erano di tanto in tanto delle palline, ma dedicate a vecchi presidenti. Ne erano state anche inquadrate alcune dedicate a JFK, a Bill Clinton, ma adesso invece il cerimoniale della Casa Bianca avrebbe incluso anche Barack Obama, che insomma bene o male non ne avrebbe titolo. Ci sarebbe la pallina di Barack Obama già sull'albero della Casa Bianca, una pallina su eBay potrebbe avere un valore stellare. La stessa Laura Bush intervistata ha detto: come, c'è anche lui, ma io sapevo che c'era JFK. Insomma è un po' Bush caduta. C'è quindi la pallina di Bush? Non lo sappiamo, e poi soprattutto non sappiamo di notte George W. Bush con la sua poderosa cerbottana che cosa fa quando comincia a guardare quell'albero lì nella penombra, no? Comunque l'anno scorso la di questi tempi di Obama, eri lì, eh? Sì, a New York, e ci avevi parlato ampiamente di questo mega albero. C'era pure la gara tra l'albero della Casa Bianca e quello del Congresso, quale fosse più alto, quale fosse più illuminato. Poi la Pelosi disse che quello comunque del Congresso era ecocompatibile. Non se ne fa mai sfuggire una. Colpi a distanza proibiti, insomma. Restiamo a parlare degli Stati Uniti, perché è cominciato oggi un vertice importante, ormai una tradizione, con la Cina, quello che già qualcuno ha definito il G2, visto che Cina e Stati Uniti sono le due più grandi potenze economiche del mondo. Dunque ci sono Paulson da una parte, ancora per poco, perché ormai come ministro del tesoro è stato modificato, è stato cambiato dalla nuova amministrazione Obama, e poi il vice primo ministro cinese Wang Qishan. E il tema di fondo sarà lo scambio tra dollaro e yuan, perché insomma gli Stati Uniti accusano Pechino di tenere artificialmente, leggo da un'agenzia, basso il valore dello yuan per favorire le esportazioni. Quindi insomma gli americani vorrebbero spronare i cinesi a finalmente rivalutare la loro moneta nazionale. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister go sister soul sister flow sister. Oh. Adesso mettetevi comodi, perché vi facciamo divertire, speriamo di interessarvi con un lunghissimo elenco, perché il settimanale, il magazine Time, il più rispettato probabilmente del pianeta, sicuramente quello ormai con la più chiara e accettata così ispirazione globale, no? Sta per nominare la persona dell'anno, che è un riconoscimento di peso assoluto. Occhio, perché la persona dell'anno può essere tale sia in positivo che in negativo, e non è mica detto che debba essere solo perché è stato buono o bravo, può essere stato anche cattivissimo al punto tale da condizionare la vita di tutto il mondo, di buona parte di esso, in quanto tale essere divenuto volenti o nolenti persona dell'anno. Ci sono le nomination, sono 25 nomi con dei pro e dei contro a loro favore e a loro sfavore, e ci sono dei favoriti e dei meno favoriti, ma noi passiamo a elencarveli così, insomma, in modo che anche voi magari vi facciate un'idea, scegliate l'uno o l'altro. Ordine alfabetico, attenzione, allora con la A cominciamo con un certo signore che si chiama Mahmoud Ahmadinejad, no? Sapete di chi parliamo. E i pro sarebbero il suo spirito polemico, no? Nei confronti di Occidente, che ha messo a segno parecchi punti, e anche quel arsenale nucleare che pare proprio che il suo Iran si sta assicurando, e la capacità che ha di infastidire, di provocare al punto giusto l'Occidente. I contro sarebbero il fatto che tutto sommato è uno che essenzialmente si lamenta, anzi non è neanche la persona più potente dell'Iran, onore che andrebbe al leader supremo Ali Khamenei. B come Ben Bernanke, l'uomo che ha espanso, no, il potere della Fed, ha aperto le finestre al prestito, insomma, per sostenere le istituzioni in difficoltà solo poche settimane or sono, per rafforzare un mercato decisamente depresso, studiando la lezione della Grande Depressione, mai lasciar fallire le banche forse ha prevenuto una Grande Depressione. Però ci sono i contro sarebbero che la crisi dei mutui, uno come Ben Bernanke avrebbe dovuto prevederla prima. B anche come Usain Bolt, no? lo sprinter campione olimpico che corre come se non ci facesse neanche caso, neanche attenzione, uno che celebra la sua vittoria prima ancora di arrivare. C'è anche un contro però a Usain Bolt, la solita vecchia domanda: siamo sicuri che è pulito? Gordon Brown, primo ministro inglese, anche lui ha i suoi meriti, ha i suoi pro, scrive Paul Krugman, il Nobel dell'economia, che potrebbe aver mostrato al mondo la strada per uscire dalla crisi. I contro sarebbero quelli soprattutto legati al fatto che la sua leadership è stata a lungo, troppo a lungo, ritenuta debole. B anche come George W. Bush, uno che bene o male ha fatto in modo che la situazione in Iraq stia continuando a migliorare, che ha fatto in modo da accorgersi che l'economia stava crollando e che soprattutto ha dato mano libera a Paulson. I contro sono che vedere Wall Street finire in quel modo, beh, insomma, non è degno di un vero grande presidente, e soprattutto che un'uscita in scena più disastrosa di questo disastro, ma... C come Hillary Clinton, dopo le sconfitte, e questi sono i pro, ha saputo mettere in scena un ritorno straordinario, e ha perso, ma il suo sforzo è stato formidabile e la sua riapparizione di grandissimo valore. I contro sono che un inizio e un'impostazione a campagna così disastrosa raramente si era vista. Tina Fey, una attrice, la comica di Saturday Night Live, l'imitatrice di Sarah Palin, ma prima ancora di Hillary Clinton, quella della battuta "posso vedere l'Alaska dalla mia finestra". I contro sono che una comica deve scegliere un anno migliore per cercare di diventare presidente dell'anno che il 2008, dove di cosette ne sono successe. G come i signori Google, ovvero Sergey Brin e Eric Schmidt, nonché Larry Page. Google continua a essere una banca, uno straordinario laboratorio di invenzioni, se è vero che il Google Phone è il gadget del 2008. I contro sono che le azioni Google nel 2008 hanno perso il 58%. H come Damien Hirst, l'artista, no? Il grande artista britannico che ha fatto letteralmente saltare il sistema dell'arte contemporaneo, ha fatto conto che i galleristi non esistessero, ha organizzato in proprio l'asta delle sue opere e ha incassato 200 milioni di dollari. L'arte non sarà più la stessa. I contro sono che vedere un artista così ricco dà un po' fastidio. I lungo come Wen Jiabao, la più popolare figura della Cina, nonno Wen, no? È l'uomo che abbiamo visto confortare le famiglie, piangere quando c'è stato il terremoto in Sichuan. I contro sono che lo stesso uomo poi è stato costretto ad ammettere la scarsità di pianificazione, il tarlo all'origine di tutta quella edilizia popolare. Illungo anche come Hu Jintao, socio del precedente, insomma l'uomo che ha messo in piedi questo straordinario anno olimpico e al tempo stesso ha saputo spendere 586 miliardi di dollari per sostenere l'economia nazionale senza fare tutto il rumore degli americani, i contro la solita paranoia cinese, per l'informazione. Illungo anche come Steve Jobs, l'uomo dell'iPhone, l'uomo che il giorno che Bloomberg ha detto che era morto, perché questo è stato detto, ha dichiarato: le notizie attorno alla mia morte sono decisamente esagerate. I contro, ma la Apple da qui in avanti dove può andare? M come al-Maliki, l'Iraq è più sicuro di 2 anni fa, i contro, è pronto a fare un governo improprio? M come John McCain, la sua campagna era morta solo quest'estate, poi ha saputo combattere degnamente, cavallerescamente fino alla fine. I contro, non poteva essere un po' meno negativo? M anche come Douglas Melton, il biologo cellulare che ha scoperto delle cellule del pancreas in grado di produrre insulina per combattere il diabete. Il contro è che queste cellule non sono ancora pronte ad essere prodotte per essere utilizzate con le persone. Robert Mugabe, l'uomo più cattivo del mondo secondo molte cronache, la sua cattiveria è tale, sembra, almeno da un punto di vista politico, che non può essere che considerata influente, no? In questo 2008 i contro sono che alla fine ha dovuto cedere buona parte del suo potere al leader dell'opposizione Morgan Tsvangirai. O come un certo Barack Obama, e mica dico altro. P come Sarah Palin, era la governatrice dell'Alaska, è diventata la sensazione americana della scorsa fine dell'estate. I contro, quella mania per lo shopping. P come Henry Paulson, quando il mercato affondava ha saputo compiere delle azioni decisive. I contro, il Dow Jones potrebbe essere sceso del 3% mentre ci state ascoltando. P come Michael Phelps, 8 medaglie d'oro sono i pro. I contro, ma perché Phelps continua a nuotare ancora adesso dopo le 8 medaglie d'oro? Dove vuole arrivare fino alla fine? C'è chi sospetta che abbia troppa passione per il divismo. L come Liu Qi, ovvero il presidente del comitato organizzativo delle Olimpiadi di Pechino. Ha organizzato delle Olimpiadi semplicemente straordinarie. I contro? Lo smog è tornato a soffocare Pechino. V come Craig Venter, l'uomo che ha costruito il primo genoma sintetico, ed è detto tutto. I contro, ma ancora non ha dimostrato che funziona. Lui giura che in un anno ci riuscirà. Z come Zhang Yimou, il direttore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, anche di quella di chiusura, il più straordinario spettacolo mai visto alle Olimpiadi. I contro, i cantati erano in playback. E infine Z come Asif Ali Zardari, il vedovo di Benazir Bhutto, che ha saputo mandare un messaggio forte agli Stati Uniti. E il problema è contro che da quando è in carica il terrorismo dalle sue parti sta crescendo a dismisura. Secondo noi chi vince? Hello Chicago! If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. L'uomo del tutte le cose sono possibili, l'avete riconosciuto, no? Naturalmente potete farci sapere al solito numerino 349-238-6666 se siete d'accordo. crazy. I'm crazy for feeling so lonely. Stanno arrivando i vostri messaggi di commento alla lista delle nomination di Time, del settimanale americano Time, attorno alla persona dell'anno, no? il buonissimo cattivissimo, comunque l'uomo che ha condizionato la vita del mondo lungo il 2008. Ne leggo una per tutte perché mi sembra la più interessante. Francesco, che scrive: che brutte persone, nessuna che cambi il sistema monetario alla base. Io voto Lincoln, che ci aveva provato ma è stato ucciso. Beh, molti messaggi in questo piccolo SMS. Poi ce ne sono certi che vabbè. Dunque, in attesa magari darvi ancora conto di ciò che sta arrivando sul nostro terminale, facciamo ora un salto a Shanghai. Per noi è abituale, che volete, con i mezzi che abbiamo a disposizione, andiamo a intervistare Daniele Barbone, il direttore di BPSEC, l'azienda che si occupa di certificare la qualità del Made in China in arrivo sul mercato europeo, ma soprattutto un vecchio consolidato amico del nostro programma. Barbone è in Cina per la più importante fiera enogastronomica nazionale dedicata agli operatori stranieri, e vi garantisco che una fiera di cibo in Cina in questi giorni, con tutte le polemiche che ci sono intorno, secondo me è un vero, come si diceva una volta, luogo del dibattito, no? Ci sarebbe tanto da dire. L'Italia comunque è presente alla manifestazione con ben 30 marchi, ed ecco Daniele Barbone che ci spiega nel dettaglio che cosa sta andando in scena in queste ore a Shanghai. Siamo a Shanghai al Food and Hospitality, che è uno dei più importanti eventi nel settore alimentare in Cina, in particolare è destinato agli operatori del settore enogastronomico, gli operatori stranieri del settore enogastronomico che hanno attività di importazione sul mercato cinese. La presenza delle aziende straniere in questa occasione è molto qualificata e la competizione avviene tra i player che sono i più importanti del mondo: l'Italia, la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti, la Grecia e altri paesi europei e asiatici. La presenza italiana, devo dire che questa volta è veramente molto qualificata e dimostra che talvolta le operazioni condotte come sistema paese evidenziano dei punti di forza molto, molto qualificanti. Il padiglione italiano è tra i padiglioni presenti il secondo per dimensione dopo quello spagnolo, e devo dire che l'impatto di quello spagnolo è molto forte anche per la costruzione coreografica che ne hanno fatto. Daniele, ultimamente gli spagnoli ci battono un po' in tutto. Sì, però questa volta ce la giochiamo alla pari, perché loro forse è un pochettino più grande e dà un impatto molto più forte, ma il nostro è il primo all'ingresso dell'International Expo Center, quindi appena entrano gli operatori stranieri trovano quello italiano. Per dimensione è un filo più piccolo, ma come numero di operatori, posto che tra aziende dirette e indirette rappresentate da consorzi ci sono 150 operatori italiani, devo dire che come numero e qualificazione degli operatori italiani questa volta probabilmente siamo stati un passo avanti agli altri. Oh, una volta tanto arrivano notizie incoraggianti, insomma, dal fronte italiano in Cina, soprattutto dell'impresa, della conoscenza, del modo, dello stile e della qualità del nostro presentarsi su un mercato di questa portata. Allora chiediamo ancora a Daniele Barbone quali siano i prodotti, i piatti tipici italiani più apprezzati dai cinesi. In passato ne abbiamo sentiti di tutti i colori, non dimenticate mai che noi abbiamo avuto ospite in studio un signore molto simpatico che riusciva a naturalmente riesce tuttora a vendere riso ai cinesi. I marchi che stanno facendo fare bella figura all'Italia come operatori che hanno un marchio proprio sono i grandi operatori italiani, quindi c'è De Cecco che ha uno stand molto importante, c'è la Vazza, c'è Illy, e quindi questi operatori sicuramente qualificano bene, così come il consorzio del Pecorino, il consorzio del Grana Padano, insomma. Quindi siamo sempre all'insegna dei nostri prodotti tipici, caffè, formaggi, sì, pasta, pomodori, immagino. Pasta, ma anche alcune novità, ci sono operatori del settore del riso, c'è un operatore risicolo molto importante che fa un prodotto, se vogliamo, di dimensioni non eclatanti come altri che erano già sbarcati sul mercato cinese, perché c'è Principato di Lucedio, che non è un nome di grandi dimensioni, ma un operatore di nicchia che fa un prodotto molto qualificato e che sta avendo un grande riscontro in uno degli stand più frequentati da parte dei cinesi, che vogliono assaggiare questo risotto, no? Così come gli operatori del vino, ci sono diversi operatori, ma c'è anche lo Zabaione italiano, e quindi c'è Zabov, che è uno degli operatori italiani. Insomma, devo dire che c'è veramente una presenza sicuramente interessante, ben coordinata per una volta, sono presenti tutte le istituzioni italiane, e gli operatori si stanno ben difendendo e il riscontro del padiglione italiano devo dire che è molto buono. So che sei stato fino a pochi minuti fa con il sottosegretario Urso, quindi ci puoi raccontare un po' la funzione di Urso in Cina? Sono 3 giorni che è in Cina, perché è stato Chongqing, poi a Pechino e poi qua a Shanghai. Oggi tra l'altro aveva in discussione diversi punti che riguardano l'Expo del 2010, e quindi cosa che interessa a tutti gli operatori italiani che sono qua per attività industriali, finanziarie e commerciali. L'ultimo incontro è stato poco fa con la presenza delle aziende italiane che hanno base qua su Shanghai, e devo dire che ha dato dei messaggi, se vogliamo, anche rassicuranti per quanto riguarda l'attività che potranno fare le aziende italiane anche in funzione della presenza del padiglione italiano all'Expo del 2010, che sarà uno, in questo momento, seppure partito in ritardo, ci diceva che nella top 5 rispetto agli padiglioni in fase di realizzazione e di implementazione, quindi sicuramente molto importante. Le autorità cinesi gli hanno dato garanzia che probabilmente questo padiglione avrà un destino che va oltre la proiezione dell'Expo del 2010. Daniele, è vero che ti hanno riconosciuto come voce di Radio 24? E Jefferson Ming? Lo confermo, sono stato fermato da una operatrice italiana che mi ha fermato e mi ha detto: ma è vero che lei è Daniele Barbone, quello di Jefferson Ming? E io le ho confermato che sono Daniele Barbone, che collaboro con voi, e che Jefferson Ming è la trasmissione che sentono gli addetti ai lavori che conoscono bene questo tipo di mercato. Ma sì, che volete, insomma, anche a me fermano praticamente ogni 2-3 metri quando cammino per Roma, non vi dico in provincia, devo aggirarmi con delle parrucche. Ma insomma non è proprio così. Comunque ringraziamo Daniele Barbone di questa iniezione di ottimismo e di coraggio. Insomma, se addirittura a Shanghai qualche ascoltatore riesce a individuare una voce come la sua, non possiamo che esserne orgogliosi, e lo ringraziamo di questo puntuale rapporto, no? Tra l'altro mi sembra anche intriso di sano ottimismo. Bene, bene, i vostri messaggi, no, ce ne sono di interessanti riguardo alla persona dell'anno di Time, perché potrei parlarvi del nuovo libro di J.K. Rowling che è andato dritto sparato al primo posto anche senza Harry Potter. Si intitola esattamente The Tales of Beedle the Bard, i racconti di Beedle il Bardo, $100 per l'edizione rilegata in cuoio. Ma a me non va di parlarvi questo, invece voglio leggere i vostri messaggi, mi sembrano molto interessanti. Vediamo, allora, persona dell'anno, Angelo scrive: io direi Paulson. E poi dice: non c'è un assente? Facebook. Secondo lui Facebook è il personaggio dell'anno, una proposta interessante. Poi un altro ascoltatore non si firma, dice: all'elenco secondo me manca una persona che andrebbe in cima alla lista, Ingrid Betancourt. Poi un ascoltatore, devo dire acuto, dice: per me lei, se lo vuole sposare il presidente. Come hai fatto a capire questa realtà di fatto? Purtroppo c'è quel problemino alto 1,80 m che si chiama Michelle. Come lo risolvo? Poi come si fa a non essere d'accordo con Obama, dice Giancarlo da Varese, e molti altri sostengono la buona scelta di Obama. Poi invece interessante il messaggio di Matteo, che dice: l'uomo dell'anno è mio padre, senza sua moglie da 7 anni ha ancora la forza di alzarsi alle 8 e andare a letto alle 3 del mattino per farmi trovare una cena calda a 68 anni. Piccoli grandi uomini, scrive Matteo, e ci associamo profondamente col suo messaggio. E vabbè, interrompiamo qui. Questo era Jefferson Ming di oggi, io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, la parte tecnica Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte. Scrivete a jeffersonming@radio24.it, sentiteci se volete in replica stasera alle 9, la diretta è domani attorno alle 4, come sempre qui da Radio 24.